I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. I'm going to see my grandma, who I haven't seen in almost 18-19 months. And you know, who's getting to the age where I want to make sure that I'm spending time with her on a consistent basis, and so that she can see her great grandchildren. Barack Obama, lo abbiamo ascoltato in una intervista a bordo del suo aereo, niente meno che, pensate un po', ha lasciato momentaneamente, ha abbandonato la campagna elettorale per un motivo valido che ora vi raccontiamo, ma insomma, fra le tante cose che stiamo imparando a capire, a conoscere, a esplorare in questa sterminata, infinita campagna elettorale americana del 2008, che però in un certo senso sta un po' riscrivendo, almeno in parte, il costume della politica a inizio XXI secolo, Barack Obama se ne va perché sua nonna sta male, non è una, per lui una nonna come tutte le altre, è anche una mamma in buona parte, perché a lungo Barack, ragazzino, ha vissuto con la signora Madeleine Payne Dunham, nativa del Kansas ma poi trasferitasi per seguire anche la sua eccellente carriera bancaria nelle Hawaii, dove per l'appunto a lungo ha soggiornato anche Barack, che poi ha perso presto la mamma, più di una dozzina di anni fa, ed è rimasto particolarmente legato affettivamente anche come contatto con il ramo americano della sua famiglia, alla figura di sua nonna, che adesso è molto malata, è anziana, ha 86 anni, domenica tra l'altro è il suo compleanno, e Barack le vuole stare vicino dopo non essere riuscita a incontrarla per molti mesi, e è una specie di pausa in un momento, se pensate, così caldo, rovente, culminante di una faticosissima, terribile, eccezionale corsa elettorale che per lui è cominciata ai primi del febbraio 2007, adesso siamo alla fine di ottobre del 2008, quindi quasi 2 anni in campagna elettorale, mancano solo 14 giorni al fatidico giorno del voto, della scelta del nuovo presidente per gli americani, ma nonostante tutto Obama, evidentemente forte anche di alcuni numeri dalla sua parte, si prende una pausa. I numeri in questione parlano di una situazione dei sondaggi molto buona per Barack Obama. Gli ultimi rilevamenti usciti sono un Reuters Zogby che parla di 8 punti di vantaggio di Obama su McCain, ce ne sono anche altri usciti qualche ora fa, ormai i sondaggi hanno una cadenza quotidiana che riportano fino a 13 punti addirittura di vantaggio a favore di Obama, a seconda delle diverse fonti. Ora è uscito proprio in questo istante su Fox un sondaggio relativo alla Florida che dà un testa a testa in uno stato tradizionalmente vicino alle posizioni repubblicane, 49-48 per McCain, ma posizioni molto vicine. Credo sia in corso un comizio, tra pochi istanti sta per cominciare a parlare invece in Pennsylvania, uno stato ancora altamente conteso dai due candidati. John McCain ha ceduto momentaneamente il microfono a Cindy, che sta acquisendo importanza in questa sua campagna elettorale. Più avanti la sentiremo anche nel corso di una intervista rilasciata qualche ora fa alla CBS. Adesso è in piedi con un vestito rosso, il colore dei repubblicani, dietro il podio della campagna di McCain, su cui c'è scritto come di consueto Country First, il paese prima di tutto. Questo è lo slogan scelto dalla campagna di McCain e Sarah Palin. Che succede intanto in queste ore in campagna elettorale? Ascoltiamo un attimo Cindy McCain. There's some some special people in here very quickly I'd like to introduce to you. Vabbè, non vi vogliamo tediare con questo terribile ronzio di fondo in arrivo dagli Stati Uniti, ma queste sono le dirette. Cindy sta ringraziando i notabili convenuti in questo comizio della Pennsylvania che porta il titolo Strada alla Vittoria. Ancora ci credono. McCain ha detto che a lui i panni dello sfavorito piacciono perché è abituato a combattere battaglie di minoranza. Di fatto il ticket repubblicano sta in questi giorni attaccando con i cannoni ad alzo zero nei confronti di Barack Obama. Non si parla praticamente più di programma repubblicano, ma si cerca di smontare quello di Barack Obama. L'origine di tutto, ormai anche dal punto di vista narrativo, sta in quel famoso incontro per le strade di Toledo, Ohio, che Obama ha fatto con l'ormai popolarissimo Joe the Plumber, Joe l'idraulico, e fra le altre cose, fra gli altri discorsi relativi al sistema fiscale, alle nuove tassazioni da lui proposte, c'è questa sua proposta di ridistribuzione del benessere, una proposta che ora viene cavalcata come un vero e proprio boomerang da parte dei repubblicani, che parlano apertamente. Addirittura è arrivato un senatore repubblicano della Florida che si chiama Mel Martinez, uno che dovrebbe saperlo bene, è arrivato a paragonare Barack Obama con i politici cubani. Insomma, si parla apertamente di Barack Obama come di un socialista. A me piacerebbe sapere da voi che ci ascoltate se avete una impressione di socialismo nelle parole di Barack Obama, che naturalmente ha cercato di smontare questa tesi dicendo che se così fosse, com'è possibile che Warren Buffett, che è uno che di capitalismo ne sa qualcosa, o Colin Powell, uno che di conservatorismo illuminato ne sa qualcosa, com'è possibile che stanno dalla sua parte? 349-238-6666 per sapere se secondo voi Barack Obama, sotto mentite spoglie, è un socialista in America. Sentiamo cosa dice lui John McCain. Senator Obama is more interested in controlling who gets your piece of the pie than in growing the pie. È più interessato il senatore Obama, secondo John McCain, che parla dell'avversario, non parla più di se stesso, è più interessato nel prendersi un pezzo della vostra torta che nel farla diventare più grande. Questa è, credo, ormai l'ultima carta pesante che i repubblicani stanno giocando nei confronti di Barack Obama, questa diffusione del benessere che lui giustifica con il tentativo di restituire a tutti gli americani l'opportunità, no, che appartiene, che fa parte del concetto di sogno americano, adesso viene ritorta contro di lui dai concorrenti repubblicani, accusandolo di voler mettere le mani nelle tasche degli americani. Sentiamo Sarah Palin. Where is he gonna get all the money for those checks that he'll cut? It's by raising taxes on America's families and on our small businesses, on a lot of folks just like you and like Joe the Plumber. Ecco Joe the Plumber. Sarah Palin chiede dove li vuole prendere i soldi per portare avanti tutti i suoi programmi. Barack Obama, nelle tasche delle famiglie americane, nella piccola impresa e nelle tasche naturalmente del buon vecchio, ormai sembra uno di famiglia, Joe l'idraulico, diventato l'emblema della ultima parte della campagna elettorale repubblicana. Aspettiamo i vostri pareri su Barack il socialista, intanto, se permettete, una eroina della nostra estate che è appena finita. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, to New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to this weekend. Take me to Broadway. Let's go shopping. Maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Walking that wall. Talk that slick talk. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. Tell a walk, wobbler. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said to me, Kanye West, Estelle, American Boy. E per appunto vi abbiamo chiesto un parere sulla vera natura, almeno da quello che è il vostro punto di osservazione, di Barack Obama. È un American Boy, come dicono i nostri amici cantanti, o è un pericoloso socialista, così che si è insinuato nel tessuto della politica americana? Vediamo. Fabrizio da Venezia dice: avercelo un socialista così in Italia. Un altro ascoltatore non si firma, dice: magari fosse socialista coi danni provocati dal capitalismo. Giancarlo da Varese: di socialismo negli Stati Uniti non ne vedo l'ombra. Ancora Roby da Vercelli: Obama è un furbacchione più che un socialista, come andare dalla nonna. Grande trovata mediatica. Beh, di trovate mediatiche in questi giorni ne abbiamo da raccontarvene. Vi potrei parlare di pannoloni, forse magari dopo lo faccio pure. Poi, beh, ma Buffett sta con i democratici come Rockefeller stava con i banchieri e gli industriali con Roosevelt. Chiamalo socialismo, corporativismo o New Deal, scrive Simo. La ridistribuzione, l'incremento della tassazione, che cos'è? Aggiunge. Di fatto i suoi begli appoggi giorno per giorno il nostro Obama li raccatta per strada. Adesso ne ha raccattato un altro prestigioso, secondo me anche un filo più di quello di Colin Powell. Ho la sensazione che porti perfino qualche voto in più, perché ha detto votatelo, votatelo, votatelo, niente meno che Eric Schmidt, che altro non è che il CEO, l'amministratore delegato di Google, che appunto si sta preparando a dare il suo endorsement a Barack Obama. È una mia scelta personale, ha detto, anche se Google resta naturalmente ufficialmente neutrale. Ma quale strumento più di internet, transitando per Google e arrivando in quel famoso barackobama.com che raccoglie milioni di dollari come se fossero noccioline, quale strumento più eccezionale, straordinario e vincente ha sostenuto giorno per giorno la campagna elettorale di Barack Obama? E sarebbe in questo senso interessante, divertente, no? Provare a profetizzare una campagna elettorale del 2012 con la tecnologia che corre alla velocità che ben tutti noi sappiamo, no? Anche la tecnologia portatile, quella che ci accompagna giorno per giorno nelle nostre tasche. Provare a immaginare come sarà configurata l'informazione e anche l'influenza, la capacità di diffondere, di promuovere, di rendere famosi e credibili personaggi di ogni ordine e grado fra soli 2-3 anni, quando la tecnologia, proprio quella che fa capo ormai a colossi come Google, sarà ancora più forte e robusta. Beh, la storia dei pannoloni ve la dico, perché in sostanza pare che ormai i reporter siano un po' corti. Tra l'altro sul palcoscenico di Bensalem, Pennsylvania, è arrivato Graham, senatore Graham, l'amico del cuore di John McCain, che sta facendo il suo discorso introduttivo. Poi pensiamo toccherà per l'appunto a John. Ma vi dicevo, la storia dei pannoloni. Il fatto è che i giornalisti che seguono da un anno e mezzo e passa i candidati in questione hanno da un pezzo finito le domande, non sanno più cosa chiedergli, e sono arrivati ai giorni della tragica domanda. Io adesso per esempio potrei guardare il mio tecnico di fronte e porgli la tipica domanda: caro tecnico, slip o boxer? realtà non me ne frega niente, ma per spiegarvi, per drammatizzare un po' la situazione, e così l'hanno chiesto anche ai candidati. Naturalmente Obama ha detto: prossima domanda per favore. John Kerry, che era in corsa nel 2004, dice: se me lo ricordo quando anche a me chiedevano slip o boxer, ma se io fossi un bel ragazzone forzuto come Obama, risponderei: no, io non porto niente, non mi serve niente sotto. La domanda slip o boxer l'hanno fatta anche a John McCain, che è un uomo spiritoso, e chi ha visto lo show di Letterman se ne è accorto. Eccolo che arriva intanto sul palco di Ben Salem, e lui ha dato una risposta molto spiritosa. Gli hanno detto slip o boxer, e lui ha detto depends, che vuol dire dipende, ma in realtà sapete che cos'è slip o boxer? Poi diamo voce a John McCain, cioè che cos'è depends. Depends è la più famosa marca americana, si chiama proprio così, dipende, penso un po' che nome, più famosa marca di pannoloni per adulti, e John McCain ha detto: ma forse dipende. With your help we're gonna win, and we're gonna bring real change to Washington DC, and I'm proud to introduce Sarah Palin not only to America but to Washington DC, and we're gonna change America, and we're gonna clean up the mess, and we're gonna drain the swamp, my friends, and we need you. 14 days, who's counting? 14 days, we've got to get out our vote. You know, my friends, I it's great to be here, and I heard, and maybe you did too, that Senator Obama was showing some love to the Devil Rays down in Tampa Bay yesterday. Ah, questo è un colpo bassissimo. Sapete che cosa ha fatto appena adesso John McCain? È andato in Pennsylvania, in casa dei Phillies, che giocano la finale di baseball a partire da oggi o domani contro i Tampa Bay Rays, una squadra della Florida. È andato a dire al pubblico della Pennsylvania, che tifa compatto per i Phillies: occhio ragazzi, guardate che quello tifa per Tampa Bay. It's my fault. It's over. Mind a question why I keep calling. I guess I'm just used to getting my way. I'm spoiled. I don't wanna be what you don't wanna be. So when I call you, just yelling at me. I'm sorry, it's my fault. Oh, the clothes I bought, you can still wear. Myself in the mirror is strange enough. So you gotta know sharing this with you is painful. Spend $750 billion of your money just bailing out the Wall Street bankers and brokers that got us into this mess. I'm I'm going to make sure we take care of the working people who are devastated by the excess, greed and corruption of Wall Street and Washington. McCain in diretta da Ben Salem, Pennsylvania, sta tenendo un comizio dei toni altamente populisti, ma anche d'attacco, come ormai suo costume nell'ultimo mese. Dice: anch'io voglio diffondere il benessere in America, ma senza prima farvi prelievi dalle tasche. Intanto è in corso questo interessante sondaggio fra voi ascoltatori per capire se questa nuova accusa, l'ultimo cartellino che il Partito Repubblicano sta mettendo al collo di Barack Obama, quello di socialista, è secondo voi corretto o no? 349-238-6666, più tardi poi ne parliamo insieme. Intanto possiamo andarne a parlare lontanissimo con un nostro amico, Giuliano Noci, docente di marketing al Politecnico di Milano, grande esperto di Cina, in questo momento in missione a Shanghai e altrettanto in ascolto dall'altra parte della cornetta. Buonasera Giuliano. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori da una calda Shanghai. Che aria tira da quelle parti attorno a questa candidatura di Obama così vicina al traguardo, Giuliano? E poi, secondo te, questa accusa di socialismo ascoltata da quelle parti, che effetto può fare riferita a Barack Obama? Ma da queste parti devo dire che si sente molto, a molto da lontano l'eco delle elezioni presidenziali americane. Devo dire che in questi giorni sono stato molto spesso fuori, anche alla sera, con persone del mondo del business cinese. In molti casi non esprimono veramente alcuna opinione, ma sono veramente distaccati. In altri invece mi è parso di cogliere, soprattutto nell'ambito del mondo universitario, mi è parso di cogliere una preferenza per Obama, ma curiosa la motivazione, perché poi ho stato un pochino a indagare. Preferiscono Obama perché li ricorda Bill Clinton, facendo parte dello stesso partito. Gli cinesi hanno un ottimo ricordo di Bill Clinton e quindi privilegiano Obama, forse sognando, auspicando, avrebbero auspicato nel passato che ci fosse stata Hillary Clinton al posto di Obama. Certo. L'accusa di socialismo, beh, direi che qui non possono di che lamentarsi da questo punto di vista. Senti, qualche giorno fa abbiamo fatto una chiacchierata con Luca Vinciguerra, il corrispondente da Shanghai, autore di una interessante inchiesta pubblicata la settimana scorsa da Sole 24 Ore, relativa, naturalmente, eco per eco, no? Arriva fino a lì, relativa ai primi effetti, ai primi sintomi di una crisi che anche in Cina fa sentire i propri prezzi ad esempio relativi alla forza lavoro, che in Cina sta salendo su livelli tali che per esempio comincia a sconsigliare qualche impresa, anche italiana, da andare a fare l'ormai tradizionale pratica di lavorazione all'estero. È qualcosa su cui sei d'accordo, su cui ti schieri? Sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che il costo del lavoro sta crescendo a ritmi vertiginosi, 25-30% all'anno. In questi giorni sui quotidiani cinesi vi sono vengono manifestate forti preoccupazioni circa il futuro dell'industria del Guangdong, la cosiddetta fabbrica del mondo. Si dice che più della metà delle fabbriche di giocattoli dovranno chiudere, non soltanto a causa del fatto che il mercato americano è in crisi, ma proprio perché il costo del lavoro non è più sostenibile per reggere quei prezzi che venivano applicati prima. Tant'è che il governo sta pensando di varare delle misure di incentivazione all'esportazione a danno dei benefici di carattere fiscali, ad esempio sull'IVA. C'è bisogno di sostenere l'industria e in questo senso il tessile, l'industria dei giocattoli sono sicuramente tra le industrie oggetto di maggiore attenzione. Un esempio di vita vissuta, sul fatto che i prezzi stanno crescendo. Oggi ho prenotato un biglietto per Pechino, un biglietto aereo, e devo dire, cari radioascoltatori, che è aumentato del 35% grosso modo rispetto a 4 mesi fa. Certo. Quindi il caro prezzi per talune tipologie di servizi, in questo caso una rotta molto utile, frequentata, che la Shanghai-Pechino, si sente come? Ma non è che in sostanza la Cina sta facendo un corso accelerato di capitalismo, scusa i termini magari un po' generici, nel senso che sono finiti in un cul-de-sac che era, mi sembra, visibile anche un po' da lontano, no? Che finisse così. Sì, assolutamente, diciamo che sta facendo un corso non accelerato ma acceleratissimo di capitalismo a velocità vertiginose. I timori, Adesso i timori sono veramente, li percepisco in giro, anche parlando con i businessmen, sono legati al fatto di sostenere l'economia e la crescita. Mentre fino a 3 mesi fa, dico solo 3 mesi fa, la più grande preoccupazione era l'inflazione, in questo momento la gente, il governo poi si preoccupa di trovare le modalità per sostenere la domanda interna. Non dimentichiamoci che Obama, le elezioni presidenziali sono sì lontane, ma gli effetti della crisi dell'economia reale americana sono viceversa guardati con grande attenzione qui. In fondo la Cina esporta oltre il 10% negli Stati Uniti, certo, del proprio prodotto, certo, interno lordo. Senti Giuliano, abbiamo ancora un paio di minuti, io li vorrei interamente dedicare alla notizia, alla storia che ci hai preannunciato poco fa per telefono, ovvero di questo straordinario parco di Shanghai. Ascoltate con attenzione, ascoltatori, perché nuove prospettive per noi tutti si potrebbero presto aprire, anche dalle parti nostre. Di che si tratta? Assolutamente. Io a People Square, è la piazza più importante di Shanghai, proprio il downtown, centro città, io ero con un mio collaboratore e con una terza persona, una donna cinese che lavora con questo mio dottorando, ci siamo avvicinati al parco di People Square e ho visto un assembramento di persone. Mi sono avvicinato e colpito, ho guardato gli alberi e sugli alberi c'erano dei disegni, disegni con delle scritte in cinese. Ho chiesto alla persona cinese: ma cosa c'è scritto? Sostanzialmente erano dichiarazioni di genitori che dichiaravano gli dati anagrafici, professione e reddito del proprio figlio. Per quale motivo? Perché i figli non hanno più il tempo di vivere relazioni sociali, lavorano 13-14 ore al giorno, allora i loro genitori si preoccupano di trovare l'anima gemella. È una cosa che avviene poi tutti i giorni e quindi, quando solitamente sono i genitori di maschi che espongono questi tazebao sugli alberi. Questi curriculum. Prego? Questi curriculum, dico. Curriculum sentimentale. Sì, una sorta di curriculum. Poi sostanzialmente si avvicinano, è una cosa veramente curiosa, si avvicinano i genitori della gentil donzella, guarda, e se il reddito, credo, soprattutto è interessante, avviene anche lo scambio di fotografia con lo scambio del numero di telefono. Mi sono poi dovuto allontanare perché la ragazza, la studentessa, la dottoranda della Shanghai Jiao Tong, essendo cinese, sta oggetto subito di attenzioni da parte dei genitori. Certo. Quindi siamo allontanati. Beh, il mercato dei bamboccioni, un posto fondamentale, se ne potrebbero aprire, secondo me, filiali in Italia. Meditate, ascoltatori. Secondo me il successo è garantito. Va bene, grazie a Giuliano Noci in diretta emissione da Shanghai, anche con questi spaccati di vita vissuta. E vi ricordo che la Cina è vicina. I love you. nothing in this world. You got me begging. You got me begging. You got me begging. Prima di passare alle ultimissime, un po' di aggiornamenti insomma sui vostri punti di vista riguardo ai temi affrontati oggi. Prima di tutto, caro Emiliano, l'idea del giardino pubblico, come temevamo purtroppo, ha raccolto l'apprezzamento. C'è già qualche iscritto, sì, italiano. Sì, sì, sì. Chris da Parma dice: Parma, subito giardino pubblico. Se io fossi un sindaco in campagna elettorale, un Obama dei poveri, non so come dire, io l'idea del giardino pubblico tipo qui a Roma, metterei Villa nel mio Borghese, programma. Sì. Villa Borghese con i cartellini trovi moglie. Però c'è Leo di Livorno che osserva con tipica cinica saggezza italiana: mi sa che se esponiamo noi i curriculum per trovar moglie coi redditi che abbiamo, rimaniamo tutti scapoli. Meno male, conclude, che siamo Latin lover. Però i Latin lover poi, quando arrivano a parlare di Barack Obama, la pensano in tanti modi diversi: è socialista, non è socialista, per i temi che tratta, per come li tratta e per la conduzione. Ah no, questo è siamo un programma interessante, scusa, grazie Stefano, mi scuso. No, invece non ci sono tracce di socialismo nel programma di Obama. Piuttosto, qual è il margine rispetto ai sondaggi per coprire il rischio di voto razzista, chiede Mario da Roma. Si parla, c'è una cifra esposta, si parla del 6%, e non è mica pochino, Tino: più se ne parla male, più la certezza del presidente, del presidente Obama è vicina. Poi uno che non si firma: sì, è socialista come Tremonti. Ancora Stefano: i cosiddetti liberal americani in realtà sono socialisti o socialdemocratici camuffati, visto che coi liberali classici alla Mises o Friedman non hanno nulla a che fare, ci scrive Claudia sapientemente. Post scriptum: quando uno prende da un gruppo di contribuenti e da un altro, come lo si chiama? Questa è una domanda alla cui risposta non sarebbe poi così semplice, un giorno la organizziamo. Ha avuto la fortuna di essere il primo nero che ha dimostrato di poter entrare alla Casa Bianca, così è il fenomeno Obama, scrive Samba. Riccardo MC Macerata, dico bene? Sì, sì, Macerata. Secondo me Obama è solo fumo negli occhi dei delusi americani e è un socialista del quale se ne pentiranno amaramente. Dan: in questo momento in economia anche Bush è socialista. Una mail da Licia: Obama non sembra, ma è un socialista e il suo sforzo maggiore è proprio quello di non sembrare tale. Non sarà pericoloso, ma sicuramente qualche pasticcio potrebbe combinarlo. Ormai per questa equazione sarebbe da parlare. Scrive appunto Licia da Cremona. Insomma, un consistente pacchetto di ascoltatori, ce ne sono anche molti altri, di Jefferson Ming, dando d'accordo a John McCain: Obama è proprio un socialista. Prima pagina. Un socialista in bella compagnia, perché hanno messo dentro Bush, Tremonti, sì, tutti socialisti in questo periodo. Siamo forse i cinesi sono meno socialisti degli altri. Mi ricorda forse qualcosa. Allora, veniamo alla brevissima rassegna stampa cinese. Oggi, Stefano, posso dire che è pirotecnica. Vai. Allora, era da un po', che non, un po' di giorni perlomeno, che non parlavamo di melamina. È tornata alla ribalta e devo dire che le notizie sono davvero sconcertanti. Ce ne sono per tutti i gusti. Ne ho scelte tre, una diversa dall'altra. Insomma, a parte il fatto che ci sono circa 1500 procioni, qui c'è poco da ridere, che sono morti nel nord-est della Cina per calcoli renali dopo aver mangiato del cibo contaminato alla melamina. Sono morti 1500 procioni. Che sono allevati naturalmente in Cina per la loro pelliccia molto, molto pregiata. Poi c'è invece una nota catena di ristoranti giapponesi, famosissima nel paese, che si chiama Saizeria, che ha deciso di rimborsare i clienti che hanno mangiato la loro pizza alla melamina, pure la pizza alla melamina in Giappone. Insomma, c'è veramente di tutto in queste settimane sulla melamina. Lo ha detto il presidente del gruppo che, senza timore evidentemente di andare in bancarotta, ha detto: restituirò i soldi a partire da oggi e anche senza l'esibizione dello scontrino a tutti quelli che avranno consumato una pizza nei 542 ristoranti, quindi sono belli tanti, certo, diffusi nell'est del Giappone tra il 25 settembre e il 2 ottobre. Tranne che 1500 procioni. In Italia ci sarebbe la coda, penso, a richiedere il risarcimento della pizza. Immagino. Ricordo che insomma l'azienda ha trovato tracce della sostanza incriminata, la melamina, nell'impasto che è stato prodotto in Cina, quindi una vendetta forse trasversale dei cinesi, il 9 agosto scorso. Buonissimo. E l'ultima è davvero fantastica, perché ci sono dei dolci al cioccolato raffiguranti parti del corpo umano, lascio poi immaginare gli ascoltatori di quali si tratta, e venduti in sexy shop della Gran Bretagna. Cosa stai dicendo? Contaminati... Scusa, no, torno indietro che non abbiamo allora, capito. Ci sono dei dolci al cioccolato, sì, però che raffigurano delle parti abbastanza eloquenti del corpo umano, che vengono venduti nei sexy shop della Gran Bretagna. Ah, venduti nei sexy shop, certo, tutto è chiaro. Contaminati non delle mani, insomma. No, no, no. Esatto, contaminati anche quelli alla melamina. Ecco. Lo dicono le autorità sanitarie britanniche. Questa è la notizia più trash che sia mai stata. Però, insomma, ci tenevo a dirla, era molto curioso. Quindi, attenzione, pure un i po' toys, i sexy dei dolci, toys, dei dolci fatti in forme, insomma, forme anatomiche, che abbiamo capito, anche quelli contaminati alla melamina. Contrappasso. Ragazzi, continuano ad arrivare i vostri messaggi, ce ne sarebbe ancora da leggere. Obama farà solo gli interessi del suo paese, altro che socialista, scrive Giusto. Poi, secondo me Obama è solo fumo negli occhi. Ancora, Barack vende fumo, questa associazione col Barack fumo. McCain lo confeziona, però, conclude questo ascoltatore. Un altro: Obama socialista? Da quando sono diventati socialisti Berlusconi e Tremonti, tutto è possibile. E questa era Barbara. Torneremo a parlarne naturalmente qui a Jefferson Ming nei prossimi giorni. Vi ricordo, ne mancano 14, due settimane esatte, fra due martedì. Gli americani saranno già a quest'ora impegnati nel voto, a schiacciare i pulsantini dei computer. Già adesso alcuni stanno votando. Oggi abbiamo letto la storia della nonna di 106 anni che ha votato ad Atlanta, una signora afroamericana nata quando i neri voto non ce l'avevano. Ha votato Obama e ha detto: uè, non è mica questo il momento di morire. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione qui a mio fianco Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Fabio Cantadori, la mail è jeffersonming@radio24.it. Andiamo come al solito in replica alle 9, altrimenti appuntamenti con questo emozionante rush finale e i suoi protagonisti domani attorno alle 4, come sempre qui da Radio 24. Yeah，一切都是假象，不是你们想象，无所谓真假，社会本来就是这样，别误会又怎样，别相信又怎样，仿佛骑着游戏的人就心跳变僵，狗狗社会非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲黑白分辨不清，观众也就跟着想象，最重要的是对得起自己，不变的道理，高手过招带着面具，谁能活得更清醒？误会加剧，大作取舍生涯戏，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆，拜拜，拜拜。